Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, finalmente insieme. Siamo pronti, direi, di andare subito a sentire i titoli del nostro sommario. Andiamo! Il bisturi che dà un taglio alle crisi. La cucina dei single. Fatti un impacco di argilla. L'apertura della puntata di oggi è dedicata all'epilessia. Ci siamo occupati più volte di questa malattia neurologica con l'intento di fare chiarezze e anche di contribuire con la nostra informazione a far cadere alcuni dei tanti pregiudizi che ancora la circondano. Quindi io vi rimando al nostro archivio che potete come sempre consultare sul sito di Radio 24, ma oggi aggiungiamo un tassello alle nostre informazioni. Vogliamo infatti parlare di chirurgia dell'epilessia e lo facciamo con la dottoressa Laura Tassi, neurologa presso il centro di chirurgia dell'epilessia Claudio Munari dell'ospedale Niguarda Cagranda di Milano. Dottoressa Tassi, benvenuta e grazie. Buongiorno, grazie a voi per il cortese invito. Dottoressa, prima di arrivare in sala operatoria facciamo un passo indietro e andiamo invece al momento della diagnosi, o meglio, quali sono i sintomi che possono indurre nel medico il sospetto di epilessia? I segni clinici e i sintomi purtroppo sono innumerevoli, diciamo che però il segno più costante in genere è una perdita di coscienza, quindi una perdita di contatto con l'ambiente che ci circonda, che può essere accompagnato o meno con dei gesti che sono invece inadatti alla situazione in cui ci si trova, e a quel punto il sospetto dovrebbe sorgere nella mente del medico che esamina per la prima volta il paziente. Poi il medico ha degli strumenti a disposizione per fare diagnosi, vogliamo parlarne? Assolutamente, nel momento in cui c'è il sospetto di un'epilessia, almeno due sono gli esami principali che vanno in ogni caso espletati, sono l'elettroencefalogramma e una risonanza magnetica, tranne in alcuni casi di epilessia genetica in cui questo esame non è necessario, ma lì deve essere il neurologo a decidere qual è l'iter diagnostico. Dottoressa Tassi, che cosa succede nel cervello di una persona affetta da epilessia? Dobbiamo immaginarci una specie di cortocircuito che può prendere solamente una parte del cervello, e allora parliamo di epilessie focali perché nascono solo in una parte del cervello, o generalizzata, quindi che colpisce tutto il cervello nello stesso momento. Ovviamente i sintomi delle crisi dipendono da quanta parte di cervello è coinvolta da questo cortocircuito. Per fortuna oggi a disposizione ci sono delle terapie che garantiscono al paziente il controllo delle crisi e quindi, dottoressa Tassi, possiamo dire che il paziente può fare una vita assolutamente normale. Assolutamente sì, fortunatamente abbiamo a disposizione un bagaglio terapeutico molto ampio, abbiamo quasi 20 farmaci a disposizione in commercio che consentono, diciamo, a una buona maggioranza dei pazienti di condurre una vita assolutamente normale, che significa guidare, sposarsi, fare una vita assolutamente normale. Purtroppo ne esiste una piccola parte, diciamo tra il 20 e il 30%, che nonostante l'utilizzo della adeguata terapia farmacologica purtroppo risulta farmacoresistente, quindi continua a fare crisi nonostante le medicine che assume. Ed è per queste forme che è suggerita e indicata la terapia chirurgica. Esattamente. Insomma, il bisturi che dà un taglio alle crisi. Esatto, brava, mi sembra un'ottima definizione. In effetti ormai da più di un secolo, perché non è una tecnica innovativa, si praticano questo tipo di interventi che consistono nell'asportare la parte di cervello che è colpevole delle crisi di quel paziente che con le medicine non riesce a controllare la sua malattia. Dottoressa Tassi, lei ha detto asportare una parte del cervello, ma che cosa succede poi dopo l'intervento? Ma noi dobbiamo immaginare che questa parte di cervello che viene asportata è malata, quindi in realtà non svolge già i compiti per i quali era stata destinata. Quindi in realtà quello che accade dopo l'intervento è il controllo delle crisi e addirittura un miglioramento, per esempio, delle funzioni cognitive, cosa che è importantissima, per esempio, nei bambini o comunque nelle epilessie che esordiscono in età infantile. Quindi, dottoressa Tassi, vuol dire che questo intervento può essere effettuata anche su pazienti molto piccoli? Lei ha parlato di bambini. Anzi, teoricamente dovrebbe essere indicato nei bambini, perché queste malattie in genere esordiscono nell'infanzia e meno tempo si trascorre con questa malattia meglio è per il paziente. Noi abbiamo operato anche bambini di 7-8 mesi, quindi assolutamente sì. Dottoressa Tassi, rischi? Come ogni operazione? Sì, come in ogni operazione, fortunatamente, nonostante lo spavento che può alle volte causare la proposta di fare un intervento al cervello, i rischi sono bassissimi, addirittura inferiori all'1%, quindi in realtà la probabilità di guarire è molte volte più grande rispetto a quella di avere un danno dopo l'intervento. E in molti casi si guarisce completamente, in altri comunque la qualità di vita e il numero delle crisi viene ridotto in modo molto evidente. Esatto, noi consideriamo che più o meno nel 70% dei casi operati si ottiene la guarigione completa, che alle volte significa anche la possibilità di sospendere la terapia, quindi veramente una restituzione ad integrum, cioè si torna ad una vita senza la malattia. Negli altri, quando l'intervento non può essere risolutivo per limiti anatomici o chirurgici, può esserci un netto miglioramento, ma non la guarigione completa. Dottoressa Tassi, ma prima dell'intervento, voi siete in grado di dire al paziente che cosa sarà la sua vita dopo l'intervento e quindi se il bisturi cancellerà completamente le crisi oppure dovrà continuare comunque a assumere farmaci e vedrà una riduzione sostanziale delle crisi, ma non una completa assenza? Certo, noi siamo in grado di dare una previsione direi molto accurata, anche perché facciamo una serie di esami prima di arrivare all'intervento e insieme con il paziente discutiamo e decidiamo quelle che possono essere le diverse strategie dell'intervento, perché possono esistere diversi tipi dell'intervento, quali sono i rischi e le complicanze e quale potrà essere ovviamente la prognosi dopo l'intervento. Quindi tutto questo deve essere di estrema chiarezza prima di arrivare all'intervento, anche perché non sono interventi salvavita, ma sono interventi per la qualità della vita, quindi l'informazione deve essere assolutamente adeguata. E diamo un'informazione in più, dottoressa Tassi. Il vostro centro, il centro di chirurgia dell'epilessia Claudio Munari, è un centro di grande eccellenza, devo dire visitato e consultato anche dai vostri colleghi americani. Noi abbiamo sempre l'occhio, no, sul prato del vicino. In Italia la situazione della chirurgia dell'epilessia qual è? Diciamo che ci sono solo due centri in Italia, il nostro è il maggiore, l'altro è a Venafro presso il Neuromed, ci sono fortunatamente altre neurochirurgie a Bologna, qui stesso a Milano all'Istituto Besta, a Siena, che si stanno organizzando per poter cominciare seriamente con l'aiuto di consulenze l'attività in questo senso. Dottoressa Tassi, io la ringrazio davvero per essere stata con noi, le auguro una buonissima giornata e grazie soprattutto per l'informazione e per la chiarezza. Grazie a lei, arrivederci. E adesso spazio alla ricerca, voglio farvi conoscere i risultati di studi interessanti, li commentiamo insieme al professor Giuseppe Remuzzi, che è coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Professor Remuzzi, bentornato. Buongiorno. Professore, iniziamo in dolcezza, parliamo del cioccolato. Chissà, forse il cioccolato può prevenire l'ictus del cervello, lo suggerisce una ricerca che è stata presentata in questi giorni all'Accademia dei Neurologi Americani a Toronto. Hanno esaminato moltissimi lavori scientifici in un primo studio che ha coinvolto più di 44.000 persone e si è visto che il rischio di avere un ictus del cervello nelle persone che mangiavano almeno una porzione di cioccolato alla settimana era del 22% inferiore rispetto a quelli che non ne mangiavano. Magnifico. Ho fatto un altro studio, questo con 1.100 persone, e lì l'effetto del cioccolato era ancora più evidente, il rischio si riduceva del 46%. Perché non lo sappiamo, il cioccolato però è ricco di antiossidanti, si chiamano flavonoidi, questi potrebbero avere l'effetto di proteggere il cervello. Ma professor Remuzzi, la notizia è intrigante, soprattutto per i golosi, ma cosa si intende per una porzione alla settimana? Quelli che hanno determinato la quantità di cioccolato hanno visto che servono almeno 50 grammi di cioccolato una volta alla settimana. Magnifico, dover mangiare qualcosa di buono perché ce lo consiglia il medico è fantastico. Però attenzione, non esageriamo. Ecco, non esageriamo. 50 grammi diventano 500, poi ci sono degli effetti negativi su tanti altri parametri. Ecco, professor Remuzzi, mi collego proprio a questa notizia per introdurre il secondo studio che ha a che fare con le calorie. Bambini sovrappeso, i dati dicono che i bambini italiani siano i più cicciottelli d'Europa, ma adesso uno studio riesce anche a prevedere sin dai primi mesi di vita se il bambino avrà problemi con i chili di troppo. L'obesità dei bambini è assolutamente un problema sottovalutato, anzi le mamme tendono ad essere contente quando vedono che il bambino è un po' grassottello. Ora, uno studio condotto dall'Università della Virginia ha analizzato più di 100 bambini che avevano sovrappeso. Il sovrappeso dei bambini comporta poi tutta una serie di problemi al cuore e tanti altri problemi nell'età adulta. Loro il sovrappeso l'hanno determinato misurando l'indice di massa corporea. Molti di questi bambini erano già in sovrappeso a 2 anni e il 90% di loro era in sovrappeso a 5 anni. vuol dire che la tendenza ad aumentare di peso, la tendenza all'obesità si manifesta molto precocemente, appena i bambini iniziano a mangiare da soli. Allora è importante che i genitori stiano attenti a quanto mangiano i bambini fino dai 3 mesi d'età e seguano insieme al pediatra la curva di crescita. Se la curva di crescita è eccessiva, allora è importante intervenire perché abitudini alimentari sbagliate si contraggono dai primissimi mesi di vita. Professor Remuzzi, e chiudiamo con l'ultima ricerca che riguarda la balbuzie. Tanto si è detto su questo disturbo, tante volte sono stati tirati in ballo i genitori, problemi psicologici. Che cosa si è scoperto? Beh, qui c'è un problema. 1% delle persone balbetta. Il perché di preciso non si sa, qualcuno pensa sono fattori emotivi, altri pensa ci saranno problemi con i genitori si fanno dei sensi di colpa, avrò sbagliato qualcosa, potrebbe essere lo stress, potrebbe essere la scuola, ne hanno detti di tutti. Adesso una ricerca fatta negli Stati Uniti dimostra che almeno in alcuni casi il balbettare dipende da modifiche di certi geni. I ricercatori per ora hanno individuato 3 modifiche di questi geni, gli scienziati le chiamano mutazioni. Sono mutazioni che potrebbero essere la causa della balbuzia in almeno il 10% dei soggetti. I soggetti in cui queste mutazioni sono trovate più spesso associate alla balbuzia sono in Asia. In realtà molte altre tipi di balbuzie potrebbero a questo punto essere associate a difetti genetici, il problema è che non abbiamo ancora trovato il gene, questi 3 sono responsabili del 10%. Questo è importante perché potrebbe dar sollievo a molti genitori di bambini balbuzienti che pensano di avere in qualche modo influenzato o di non essere stati capaci di prevenire questo difetto. Se la balbuzia dipende dai geni, i genitori c'entrano in un certo senso, ma non c'è nulla che avrebbero potuto fare per evitare che succedesse. Professor Remuzzi, la ringrazio per essere stato con noi per questa finestra tutta dedicata alla ricerca. Le auguro un buon lavoro e spero di sentirla presto. Buona giornata. Grazie, buona giornata a voi. Ci sono malattie che già dal nome fanno paura. È il caso dei sarcomi, tumori rari, con una prognosi spesso difficile, ma non per questo incurabili. Questo è il tema dello specialista del mese di Humanitas e questo è anche, cari ascoltatori, un messaggio che noi vogliamo dare ai familiari dei pazienti che si trovano a combattere con questo tipo di malattie. In linea con noi abbiamo il dottor Vittorio Quagliolo, che è responsabile della sezione di chirurgia dei sarcomi presso Humanitas. Dottore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Dottore, i sarcomi sono tumori che insorgono nel tessuto connettivo, che è il tessuto praticamente di sostegno dell'organismo, e questo ci dà già una prima indicazione. Questo ci dice che in teoria possono insorgere in qualsiasi sede. Ma quali sono le zone più a rischio e qual è l'età di insorgenza? Beh, i sarcomi possono nascere ubiquitariamente, cioè in qualsiasi sede anatomica dell'organismo, però più frequentemente colpiscono gli arti, l'arto superiore, l'arto inferiore e successivamente il tronco, il retroperitoneo, che è una zona particolare dell'addome che sta posteriormente a tutti gli organi, dove ci sono ad esempio i reni, il muscolo iliopsoas o il pancreas, e possono anche colpire gli organi viscerali. Sono una particolare categoria di sarcomi che si chiamano GIST, tumori stromali del tratto gastroenterico, che possono insorgere più frequentemente nello stomaco, nel duodeno o nel retto. L'età più a rischio è l'età, diciamo, dopo i 50 anni. Ci sono alcuni istotipi particolari che sono più frequenti nell'età pediatrica o adolescenziale, come sono il sarcoma di Ewing, un particolarissimo tumore che può insorgere nell'osso o nei tessuti molli. O l'osteosarcoma, che è un tumore che colpisce i giovani, soprattutto ne abbiamo parlato nel ginocchio. Senta, dottore, c'è una sorta di familiarità con questo tipo di tumori? Ma fondamentalmente no, non è stata riconosciuta nessuna familiarità, anche se qualche volta nel corso dell'attività professionale di chi si occupa di questa patologia avete evidenziato questo dato. Si possono incontrare parenti di primo grado che hanno avuto tutte e due stati colpiti da sarcoma, ma questo non vuol dire che ci sia una sindrome ereditaria, mentre invece ci sono delle sindromi ereditarie nel corso delle quali si possono insorgere dei sarcomi, ad esempio la neurofibromatosi di tipo 1 o la sindrome di Li-Fraumeni o la sindrome di Gardner, sono tutte malattie ereditarie e nell'ambito di queste sindromi possono insorgere anche i sarcomi. Dottore, proprio perché non sono così diffusi e anche per il fatto che clinicamente si presentano come masse non dolenti, spesso i sarcomi vengono individuati un po' per caso, è così? Sì, beh, è vero, certo. Chi si vede crescere una tumefazione in un arto superiore o inferiore generalmente in prima istanza pensa a un fatto banale, si fa vedere dal medico curante che ragionevolmente fa pensare, fa diagnosi di lipoma o di patologia comunque benigna, però sì. Poi nel corso del tempo questa tumefazione cresce e quindi deve insorgere il sospetto che quella sia una patologia diversa da una patologia benigna e quindi bisogna avviare quantomeno una serie di procedure diagnostiche, a cominciare dall'ecografia che è la più banale, la più facilmente ripetibile, a esami radiologici più sofisticati come la risonanza magnetica o l'attack con mezzo di contrasto, vero? Assolutamente sempre col mezzo di contrasto, perché il mezzo di contrasto viene captato dalle forme tumorali e quindi si evidenziano meglio. Dottore, però abbiamo detto che sono tumori che hanno una prognosi spesso difficile, ma non per questo sono tumori incurabili. Ed è evidente, soprattutto negli ultimi anni, che la cura di questi tumori è legata ad un approccio multidisciplinare. Quindi non solo il chirurgo, ma quali altre figure, perché l'unione fa la forza. Certo, l'approccio multidisciplinare, cioè, di sarcomi sono la tipica patologia dove, e non solo ovviamente in ambito oncologico, dove l'approccio multidisciplinare è fondamentale, perché primo perché possono insorgere ovunque nell'organismo, come dicevo prima, e quindi c'è bisogno non solo del chirurgo, diciamo, generale, ma ovviamente di volta in volta può essere indispensabile discutere il caso trattarlo con altri specialisti, quali ortopedici, chirurghi vascolari, radioterapisti, riabilitatori, si discute con gli oncologi medici, quindi è un'equipe. Un'equipe che deve essere assolutamente lavorare in sintonia con lo scopo di scegliere di volta in volta il trattamento più adeguato per il paziente. E il trattamento diventa sempre più cucito su misura del paziente, proprio come un abito di alta sartoria, e questo ha cambiato anche la prognosi di questi tipi di questo tipo di tumore, vero? Beh, certo, perché ovviamente l'impiego delle varie discipline, diciamo, di cura per i tumori, che sono la chirurgia, la radioterapia e la oncologia medica, possono essere impiegati in maniera diversa a seconda e ritagliate esattamente sulla situazione di quel determinato paziente. Quindi avete aggiunto anni alla vita, ma anche vita agli anni? Abbiamo aggiunto anche vita agli anni, sì. Perché la qualità di vita del paziente deve essere assolutamente tutelata. Assolutamente tutelata. Oggi, ad esempio, cosa che fino a qualche, diciamo, quinquennio fa, insomma, non si faceva, ci si avvale spesso della competenza del chirurgo plastico ricostruttore, perché con la trasposizione di lembi, di cuto, di muscoli, si possono, come dire, ripristinare delle funzioni che con l'intervento, diciamo, di asportazione demolitivo possono essere perse, quindi è fondamentale. Quindi un messaggio di speranza, direi, di ottimismo per i pazienti affetti da questo tipo di tumore. Vi rimando allo specialista del mese, l'equipe del dottor Quagliuolo è pronta a rispondervi, quindi approfittate di questo servizio. Intanto io la saluto, dottore, la ringrazio. Grazie, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a voi tutti, grazie.

allora stringe il mocassino e questo può dare dei fastidi. Però sia il mocassino che la scarpa stringata sono ottime paia di scarpe, sempre con quelle caratteristiche che abbiamo detto prima. Allora, vogliamo fare proprio velocemente un riepilogo? Magari sembra ovvio, però la scarpa deve essere comoda. Sì. La tomaia deve essere traspirante. Sì. La suola deve essere ammortizzante. La stessa suola non deve essere scivolosa. Sì. Il contrafforte, cioè il calcagno, deve bello essere solido. Tosto, sì. Le dita devono potersi muovere, non devono stare lì attrappite. Questo è veramente importante sottolinearlo, perché quando andavano di moda le scarpe mai a punta, avevamo queste dita strizzate. Esatto. Va bene, quindi dita comode che si le possono muovere. Si devono poter muovere, non deve stringere proprio al collo del piede. E i materiali devono essere materiali giusti, cioè che non portino dermatiti o eczemi, queste certo cose. E poi, secondo me è importante, la scarpa che indossiamo ci deve anche piacere. È vero, professor Albisetti, ci deve anche piacere. Io la ringrazio. Grazie a voi. Ci ha messo un po', come si dice, le ali ai piedi. Intanto ci sentiamo presto, un saluto e buona giornata. Grazie, grazie a voi. Per scelta o per necessità, vivere da single può avere sicuramente i suoi vantaggi, ma anche necessariamente, succede per tutte le cose, anche le sue difficoltà. Una di queste, ad esempio, e non è da poco, è seguire una dieta sana, varia ed equilibrata. Spesso i single, lo confermano le ricerche, acquistano cibi pronti, scatolette surgelati, d'altra parte la loro vita è un po' organizzata sul mordi e fuggi, ma così facendo trascurano i cibi facilmente deperibili, quindi la frutta, la verdura, il pesce fresco. Così la loro dieta rischia di diventare un po' monotona e nutrizionalmente povera, perché i medici lo ripetono da anni: è nella varietà che sta il segreto per mangiare bene. Ma in aiuto dei nostri single abbiamo in linea il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano. Dottor Speciani, bentornato. Buongiorno a tutti voi. Ma indubbiamente il tempo manca. Io devo dire però che ci sono dei piccoli trucchi che partono intanto da un processo culturale, cioè che cosa faccia bene. Sì. Per cui una volta che capiamo che comunque frutta e verdura fanno bene, allora tenersi in casa ad esempio delle mele, delle pere, le tengono in serbatoio per mesi, se noi le teniamo per 15 giorni in frigorifero non succede nulla. Dei dubbi, anzi abbiamo delle sostanze che sono ottime, che sono quel crudo vivo e colorato che ormai si sta documentando come uno degli strumenti per stare bene. Una delle cose utili, ad esempio, carote. Le carote si conservano a lungo. Non è necessario oggi, per come sono prodotte le carote in Italia, dover pelare le carote completamente e dedicare un mucchio di tempo. Basta uno spazzolino, la carota va passata sotto l'acqua corrente spazzolata, cioè si toglie effettivamente quello che ci può essere, poi va sgranocchiata, fa bene ai denti, fa bene allo stomaco, fa bene a tutto il resto. È un ammazza fame poi. Ma assolutamente, imparare a comperare, se uno passa occasionalmente uscendo da una seduta di lavoro, passa davanti a un verduriere, ecco che il grappolo d'uva piuttosto che la frutta di stagione che può comparire, se ne prende un po' e questa si mangia rapidamente. Ma una base delle verdure e della frutta utilizzabili bene, cioè mele, carote, le segnalo perché sono le più facili da gestire, sì, un sedano, sono sicuramente gestibili in qualsiasi situazione, come intermezzo di pranzo, eccetera. E qui veniamo ad altri due elementi. Trovo che una delle cose deleterie, ma questo lo vedo da medico nei single, è che normalmente c'è l'utilizzo del pane, no? Che sono crackerini, biscottini. Sgranocchiano i single. Sono degli sgranocchiamenti assolutamente deleteri. Sono pieni di sale, sono pieni di grassi idrogenati vegetali. Lancio un appello per le nostre single: grassi vegetali idrogenati significa produzione di radicali liberi, significa rughe. Non tocco il tema delle malattie degenerative. Allora, contro le rughe, contro la ciccia, secondo me mettiamo in moto qualcosa di più sano. Sì. Ad esempio, se uno al sabato si prepara, prende ad esempio del couscous, il couscous si prepara, uno impiega un'oretta a prepararlo, basta bollirlo, cioè avere alla fine questa semola di frumento integrale. Per chi non conosce il couscous, è come se fossero spaghetti microframmentati, no? Sì. Quindi abbiamo una sorta di pasta che può essere utilizzata. È una base magnifica, come anche l'orzo, il farro, esatto, il riso integrale. Il riso integrale